Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Nei giorni delle polemiche sul mercato del lavoro e tutele e sulla possibilità che l'Italia resti un paese per giovani, per così dire, abbiamo deciso di raccontarvi la storia di successo di un giovane ingegnere italiano. È il fondatore di un portale che viaggia verso il milione di utenti, ha a che fare con l'università e la sharing economy. Sapete che cos'è un bike coach e sapete che esistono i campionati europei dei bike messenger, i corrieri in bicicletta? Ve lo raccontiamo nella nostra rubrica A due ruote Bikeology. E poi parleremo della moda dei matrimoni VIP in Italia e della wedding destination come risorsa per il rilancio del turismo. Focus sui trend, tutto dedicato alla rivincita della chimica sul totally natural, per così dire, e riflessione finale sulla differenza fra lusso ed eccellenza come valore di posizionamento per il Made in Italy. Credo di aver avuto una buona idea. Cazzo, mi piace, è veramente figo. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. Prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Sarà in rete fra un secondo, farà notizia. A chi lo inviamo per primi? Bastano un paio di persone. La domanda è, a chi lo invieranno loro? Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. Un social network nato nelle università, ma è tutto italiano e conta ad oggi 850.000 iscritti in Italia e nel mondo. Si chiama DocCity e consente agli studenti di scambiarsi appunti, documenti e consigli su corsi ed esami. Una piattaforma che interpreta al meglio e con successo le regole della sharing economy, uno dei settori che, come sapete, promettono grandi sviluppi in questo momento. Ad idearla 4 anni fa Riccardo Ocleppo, 28 anni, ingegnere torinese, che ora è alla guida di uno staff di 10 persone. DocCity è una piattaforma che nasce con l'obiettivo di far scambiare appunti agli studenti universitari. Tutto il meccanismo si basa su uno scambio peer-to-peer che incentiva a condividere materiale di studio per poi poterne sfruttare a pieno tutte le funzionalità del sito. Quindi nello specifico gli utenti sono incentivati a condividere i propri appunti, a rispondere alle domande, a condividere video, articoli sul blog. E d'altra parte, facendo questo, possono poi accedere agli altri contenuti condivisi dagli altri utenti, piuttosto che a funzionalità proprio specifiche del sito. L'amministrazione e la moderazione della piattaforma è molto lasciata agli utenti stessi, che, diciamo, con un sistema di rating piuttosto che di valutazione dei contenuti, fanno o meno salire i contenuti, ad esempio nelle ricerche o nelle pagine specifiche. Parliamo ovviamente di una piattaforma digitale, però all'inizio, per farti conoscere, hai usato metodi molto poco digitali, raccontiamolo. Sì, diciamo che all'inizio ero molto nuovo al mondo digitale anch'io e ci è venuta in mente questa idea di andare in giro per le principali università. Poi io sono di Torino, quindi abbiamo iniziato da quelle di Torino. Essenzialmente quello che facevamo era andare ad appiccicare adesivi nei dintorni dell'università oppure in certi posti frequentati dagli studenti, quindi la biblioteca oppure i bagni della biblioteca. Mi è proprio capitato di recente, a 4 anni di distanza, di andare nella facoltà di economia qua a Torino e sono scoppiato a ridere quando ho visto ancora un adesivo nostro attaccato su una parete. E adesso ti dà di che vivere, insomma, non solo a te. Esatto, oggi siamo in 10. È una realtà che comunque si sta espandendo molto anche all'estero. Sta crescendo molto anche in Spagna e Sud America soprattutto. Qual è il profilo tipo di chi usa DocCity? Allora, ottima domanda. Tendenzialmente ti direi universitari, ovviamente, anche se acquisiamo gli utenti già prima della maturità e li portiamo fino a dopo il periodo universitario. E le principali facoltà sono sicuramente giurisprudenza, economia, ingegneria, scienze politiche, e poi a scendere quelle umanistiche. A livello di collocazione geografica, la città principale è Roma, e poi ci sono Milano, Napoli, Torino e città del centro e sud Italia, quali ad esempio Palermo e Catania. C'è una parte anche in cui gli appunti si possono vendere, così? Questa è l'evoluzione del servizio. Ci siamo resi conto che gli studenti sono ovviamente portati a condividere gratuitamente una fascia di contenuti, quelli su cui magari non spendono una fetta così consistente del proprio tempo. E quindi ci è venuta l'idea di portarli a condividere anche contenuti di maggiore qualità, quindi ad esempio tesi di laurea, tesine, comunque contenuti per i quali loro spendono mesi e mesi per poi arrivare a un contenuto di qualità. Si è aperto un mondo del tutto nuovo che ci sta dando moltissime soddisfazioni sia a noi che agli utenti stessi. Oggi abbiamo più di 4.000 utenti che vendono online sul sito, più di 10.000 nuovi contenuti di maggiore qualità disponibili per tutti coloro i quali interessano, e alcuni di questi studenti stanno mettendo su parecchie centinaia di euro ogni mese, quindi comunque una cosa molto interessante. Bikeology. La bicicletta è la chiave per vivere una città migliore, questo il messaggio di Riding Circle, l'iniziativa che abbiamo scelto per il consueto spazio dedicato al mondo visto dalle due ruote. L'ospite di Bikeology di questa settimana è Giovanni Morozzo di Ciclica, l'agenzia di comunicazione e promozione della mobilità ciclistica, organizzatrice di questo evento. Giovanni, ciao. Ciao, buongiorno. Allora, di cosa si tratta? Ma si tratta di uno spazio, intanto, uno spazio molto bello che è Expo Gate, in centro a Milano, tra il Castello e Largo Cairoli, ed è uno spazio in cui ospiteremo un sacco di iniziative, ogni giorno un incontro che parlerà delle tante realtà e dei tanti modi di interpretare la bicicletta oggi a Milano. Leggo anche ci sarà un bike coach che consiglierà sulla scelta della bicicletta e sulle strategie antifurto, ad esempio, uno dei temi insomma che nelle città è molto sentito. Sì, assolutamente, diciamo, ci sarà questa figura che aiuterà a scegliere il modello in base alle proprie esigenze e consiglia anche su come vestirsi, il tipo di caschi, le luci e in generale la sicurezza, la manutenzione, c'è un po' tutto, proprio per avvicinare chi magari non va più in bicicletta, avvicinarlo a questo bellissimo mezzo. Con questa rubrica lo stiamo scoprendo, la bicicletta è un mondo incredibile, racconta tantissime storie. Leggo nel vostro programma che nel 2015 Milano ospiterà anche i campionati europei dei bike messenger, quelli italiani si sono svolti da poco, di cosa si tratta? Bike messenger è un lavoro, è il ciclocorriere, quindi diciamo una persona che passa il suo tempo in bicicletta ogni giorno a consegnare cose in maniera veloce e rapida in giro per la città. È una tradizione che proviene da paesi anglosassoni dove lo fanno da tanto tempo. I bike messenger si ritrovano una volta all'anno per delle competizioni che sono poi in realtà scuse per stare insieme. Tra l'altro abbiamo presentato l'altro giorno e presenteremo di nuovo il 9 ottobre in anteprima un documentario che abbiamo fatto proprio su questo campionato italiano di bike messenger. È un bel documentario che appunto racconta un po' come si svolge questo campionato. Giovanni Morozzo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. L'evento mediatico dell'anno, ne hanno parlato tutti, hanno tenuto Venezia in scacco per così dire per giorni, delle nozze di George Clooney e Amal Alamuddin, ormai sappiamo tutto, un matrimonio che ha consacrato la moda, chiamiamola così, dei matrimoni VIP internazionali in Italia, da Tom Cruise in avanti. Prima di George e Amal a fare notizia era stato quello della figlia di un magnate indiano in Puglia, a Savelletri di Fasano, provincia di Brindisi. Costo 10 milioni di euro, così è stato scritto, location prescelta, la struttura extra lusso Borgo Egnazia, resort del gruppo San Domenico. Ne abbiamo parlato allora con Aldo Melpignano, Managing Director di San Domenico Hotels. Gli eventi sono un aspetto importante del lavoro che facciamo, danno un richiamo diciamo internazionale alle nostre strutture e ci permettono anche di lavorare di più con una clientela individuale, perché ovviamente gli ospiti che vengono a questi eventi solitamente sono clienti tipo per le nostre strutture, quindi poi se apprezzano, e come nella maggior parte dei casi succede, poi tornano anche in vacanza. Abbiamo fatto anche il matrimonio di Justin Timberlake e Jessica Biel un paio d'anni fa, insomma sono cose che mettono le nostre strutture sul radar, diciamo, ecco, e sicuramente è molto utile. E diventano anche un mezzo di promozione per il territorio. Assolutamente sì, noi ovviamente, noi le persone che lavorano con noi hanno lavorato, ma ci sono state tantissime altre imprese e aziende della zona che sono state coinvolte dai vari servizi di catering, strutture, illuminazioni, quindi adesso i numeri esatti non lo so, si vociferava di 1500 persone coinvolte, di cui molte dal territorio, ecco. Portano un grande indotto, e non solo l'indotto, c'è anche poi la notorietà, perché insomma di Puglia adesso negli ultimi anni, grazie anche a questi eventi che ci sono stati, se ne parla moltissimo negli Stati Uniti, sono eventi anche mediatici, quindi hanno una certa risonanza oltre all'indotto economico dell'evento di per sé. E si è rafforzata e ben comunicata anche questa tendenza, appunto quella dei matrimoni in Italia, potrebbe assolutamente diventare una linea di business per tutto il settore. Sì, lo è già, anche perché comunque è un trend in crescendo, questa del, come si chiama in inglese, il destination wedding, quindi di prendere un gruppo di amici e portarli in un posto che non sia la propria casa e insomma stare insieme per un lungo fine settimana. Questo trend l'abbiamo visto aumentare negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, e quindi è sicuramente un'onda da cavalcare, perché innanzitutto porta soldi, spesso e volentieri non necessariamente nel picco della stagione, e quindi è sicuramente un canale molto molto interessante su cui spingere. Siccome ci sono tante location interessanti, quando si promuove l'Italia come destinazione turistica, questo discorso del destination wedding è sicuramente una cosa su cui puntare. Su tutto il territorio nazionale, non solo in Puglia, non solo Venezia, insomma in tutta Italia ci sono dei posti meravigliosi che possono ospitare questo tipo di eventi. C'è proprio un mondo di event planner, di agenzie specializzate che organizzano quasi solo questo tipo di eventi, e quindi bisognerebbe fare un po' più sistema e cercarle e portarle di più in Italia, farli visitare i posti che ci sono e costruire un altro canale oltre alla clientela che viene per turismo culturale o per venire al mare per le bellezze naturali. Sì. Cioè, un altro canale completo potrebbe essere proprio il celebration degli eventi privati, e sarebbe interessante cercare di collaborare su questo. Essere e avere. Sì, e Howard e Raji come hanno fatto a diventare suoi amici? Non lo so, come gli atomi di carbonio con l'anello benzenico, prossimità ed elettroni di valenza. Focus sui trend. Non tutto ciò che è naturale è buono e non tutto ciò che è artificiale è cattivo. Abbiamo deciso di partire da questa riflessione per la tendenza di questa settimana, che ci parla di una riscoperta della scienza, della chimica, della matematica anche. È una tendenza trasversale che dalla cosmetica arriva anche al cibo e poi all'arte, al design. Parola chiave: consapevolezza, perché il consumatore ormai è pronto a scegliere e a valutare. Ne parliamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab. Luisa Schiero, ben ritrovata. Grazie, buon pomeriggio a te, agli ascoltatori, e ben ritrovati anche da parte mia. Come avete definito questa tendenza, Luisa? In quali settori la state evidenziando? Allora, abbiamo chiamato questo trend, diciamo, questa nuova, proprio come dicevi, consapevolezza diffusa, alchemic solution, e quindi soluzioni alchemiche, in cui si rivaluta il ruolo della scienza non ponendola più in antagonismo con il mondo della natura e la naturalità in genere. È un trend che si sta diffondendo in diversi settori del consumo, dal food al design, ma rivela una forza particolare nel settore della bellezza. E si tratta, come hai accennato, di una vera e propria rivoluzione di tipo quasi culturale, che è stata inizialmente compresa appieno soprattutto da consumatori e consumatrici un po' più avanzati e informati, che vivono questa sensibilità non tanto in contrapposizione con i grandi temi della naturalità e della sostenibilità, ma come una via complementare, diciamo, non alternativa, per poi ovviamente migliorare la qualità della vita e il benessere. E quindi soprattutto nell'ambito della bellezza forza, per esempio, a testimonianza di questa rinnovata credibilità della sfera scientifica. Poi concretamente vediamo il costante sviluppo del canale delle farmacie. Un altro caso interessante è un'azienda, per esempio, come Vella, che ha recentemente presentato una linea di prodotti per capelli free off, cioè senza, e tra cui per esempio una linea che si chiama Elements, che punta proprio su una chimica buona, quindi che va a sostituire i tanto vituperati solfati, parabeni, coloranti artificiali, con però altri elementi chimici meno aggressivi che però garantiscono una buona performance. Diciamo che è un altro caso, settore molto interessante, che da tempo si è rapportato a questa realtà scientifica, per esempio è l'alimentazione. Mi viene da farvi una citazione che è molto carina, di un poeta inglese del 1600, Ben Jonson. Definiva in questo modo i cuochi: ogni scienza è nel cuoco, più che alchimista, più che Rosa Croce, è un architetto. Il cuoco è un ingegnere, un soldato, filosofo, scienziato e in ogni matematica è versato. Ecco, questa definizione si addice molto bene alla cucina molecolare, già da tempo diffusa, in cui l'uso di elementi chimici è proprio di supporto al risultato sia estetico che di gusto. E ora come ora, per esempio, lo chef inglese pluristellato Michelin Heston Blumenthal ne è forse l'interprete più interessante, e proprio a giugno, al Terminal della Regina, al Terminal 2 di Trovola di Londra, è stato aperto anche per, appunto, chi rapidamente frequenta questo spazio per prendere un aereo, però, The Perfectionist Café, che è un luogo dove per esempio si può gustare il suo famoso gelato all'azoto liquido, quindi con elementi prettamente chimici, però ovviamente commestibili. Piuttosto che invece un altro caso che mi viene da citare, carino, un po' divertente, anche se volete domestico possibile, che è legato al mondo del design, quindi in questo caso è tecnologia. Come la tecnologia anche può valorizzare un'esperienza di consumo a partire però dal mondo naturale. Vegetable Recognizer è una superficie high-tech realizzata da uno studio olandese di IIP che riconosce qualsiasi tipo di vegetale voi vi appoggiate e in tempo reale vi racconta, descrive tutte le ricette possibili e immaginabili con cui utilizzare questi vegetali. Quindi anche qui la scienza al servizio della natura, la sintesi è possibile in questo caso. Ecco, quali sono gli indizi, il contesto più generale che state mappando per questa rinnovata passione, chiamiamola così, per la scienza? Pensando al passato e al fatto che l'Italia è sempre stata un paese a vocazione principalmente umanistica, sono particolarmente interessanti i segnali di questa ripresa dell'interesse per la scienza e sicuramente le mostre, la quantità sempre maggiore di mostre ed eventi dedicati alla scienza è un segnale chiarissimo. Recentissimamente, il 14 settembre a Milano, presso la Triennale, è stata inaugurata questa mostra intitolata Mate in Italy, come un gioco di parole che lascia intendere da un lato che è una mostra chiaramente dedicata al mondo della matematica, dove si cerca di sfatare alcuni miti negativi di questa materia di studio, mostrandone il legame con l'immaginazione, la creatività, e dall'altro si cerca di dimostrare come la matematica sia costantemente presente e utile nella vita quotidiana anche, piuttosto che a ottobre a Roma un'altra mostra al Palazzo delle Esposizioni, Numeri, quello che conta da zero a infinito, di nuovo una panoramica in questo caso che fa anche riferimento al centenario della scoperta della teoria della relatività nel 2015. Luisa Schiera, grazie per essere stata con noi, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale sulle trasformazioni in atto nel mondo dei consumi in compagnia del sociologo Francesco Moracci. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Sono cambiati i consumatori, che sono diventati appunto consumautori, sempre più informati, consapevoli, attivi nel loro rapporto con la marca, e sono cambiate di conseguenza le loro scelte d'acquisto, condizionate da una molteplicità di fattori, crisi e diminuzione del potere d'acquisto, certo, detto poi neosobrietà, istanze ambientaliste e moltiplicazione anche dell'offerta low cost. In questo scenario, Francesco, anche gli acquisti di lusso rispondono a regole nuove. Sì, regole nuove che sono legate forse più all'eccellenza che non al lusso. Potrebbero sembrare sinonimi, non lo sono. Il lusso è per pochi, è pensato fin dall'inizio per pochi, è legato ad un eccesso, a un qualcosa in più, un po' come la lussuria che è un eccesso erotico o la lussazione che è quando l'osso va fuori dall'articolazione. L'eccellenza invece è legata a un saper fare. Essere eccellenti significa fare meglio di chiunque altro qualcosa, quindi produrre qualcosa, e quindi possono essere oggetti semplici, accessibili, che appartengono magari a famiglie di oggetti che sono quotidiani ma che vengono realizzati meglio di chiunque altro, e su questo devo dire che l'Italia ancora oggi è la prima al mondo. Ecco, lusso ed eccellenza è una differenza che tu applichi anche ai paesi simbolo della produzione dell'alto di gamma, che sono appunto la Francia e l'Italia. Sì, perché la Francia ha una storia di secoli legati al lusso, no? Pensiamo alla corte di Luigi XIV, il Re Sole, quindi tutto arriva dall'alto nel mondo del lusso ed è appunto per pochi, c'è un privilegio sociale. L'Italia invece è un paese di territori in cui tutto parte dal basso, da un saper fare meglio di chiunque altro, quindi l'eccellenza credo che dovrà essere la bandiera per i prossimi anni nella nostra idea anche proprio di paese, esportando le nostre qualità. Naturalmente poi non si escludono lusso e eccellenza, quindi ci sono aziende italiane che giustamente puntano al mercato del lusso, che è importante, i ricchi sono sempre più ricchi, ma ce ne sono tante che hanno capito di poter competere anche senza necessariamente lavorare sul lusso, ma sviluppando i loro prodotti eccellenti. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberto Scaltritti in regia. Essere Avere torna sabato prossimo, come sempre, alle 16.30. Veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook, troverete questa e le altre puntate da riascoltare. Dal sito di Radio 24, pagina programmi, le potete anche scaricare. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.